tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, calcio italiano, insomma ormai lo si vede, lo si legge, lo si percepisce, lo si constata, è ufficialmente in crisi economica, finanziaria, e questo è una conseguenza di una crisi più globale, ma lo è in maniera particolare per tutto quanto si legge e si sente di ridimensionamenti da parte di società di primissimo piano, e mi pare che il Milan sia l'esempio principale, ma è in crisi anche tecnica. Per il secondo anno consecutivo la Coppa Campioni è finita per le squadre di casa nostra, agli ottavi di finale. La nazionale sembra essere tornata indietro, perlomeno di qualche anno, all'infausta gestione Trapattoni, infausta se non altro dal punto di vista dei risultati, perché il Mondiale di Corea e il successivo europeo certamente furono due momenti abbastanza bassi della parabola azzurra di questa epoca. Parliamone con Adalberto Bortolotti. Adalberto, buongiorno. Buongiorno Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, parliamone quindi, coinvolgendo te, parliamone. Direi su questo, partiamo da questo sfondo, ammesso e non concesso che tu lo condivida, e poi arriveremo invece ad alcune disamine tecniche che riguardano in particolare l'Italia, visto che questa rappresenta l'attualità. C'è questa crisi di fondo in cui inserire quella del calcio italiano? Ma non si può non essere d'accordo, credo che non siano interpretazioni ma fatti. È il panorama generale che sconforta, perché tu hai giustamente parlato di crisi economica, di crisi di organizzazione, quindi di crisi tecnica, che è quella poi che balza agli occhi e interessa forse più delle altre, certo, anche se ne è in parte una conseguenza. Aggiungerei anche crisi morale, se la parola non è troppo grossa, perché fenomeni come la violenza e il razzismo, ad esempio, che altrove sono stati combattuti e in molte parti vinti, da noi resistono ancora, di impianti, insomma, mi pare che sia dove metti lo sguardo non trovi motivi di grande entusiasmo. Poi è chiaro, arriva una spedizione catastrofica, per fortuna in una competizione che conta il giusto, come questa della nazionale, e allora è lì che punta l'interesse, però i guai stanno a monte, ecco. Stanno a monte e cominciano appunto a riverberarsi in un'ottica, in una chiave di lettura, oppure salta il tappo dei risultati, perché in fondo a questa Italia, a quella che forse è tramontata definitivamente contro il Brasile la sera di domenica, a questa Italia dobbiamo anche quel famoso tappo, no? che fu messo quando sembrava che la diga ormai stesse cedendo del tutto, e invece nel 2006 fu questa nazionale che da una parte salvò e dall'altra forse contribuì a non lasciar fare pulizia fino in fondo. Sì, diciamo che ha steso un velo pietoso, come tutti i rimedi pietosi a volte non sono così efficaci. La nazionale ha dato, perlomeno ai superficiali, un alibi sotto il quale ci siamo riparati un po' tutti, ma in fondo siamo campioni del mondo. Cioè, le squadre di società, come hai ricordato, nelle ultime due stagioni hanno offerto un rendimento scarsissimo, perché fermarsi agli ottavi di finale di Champions vuol dire uscire quando la competizione comincia, in pratica. La PIL del nostro calcio è chiaramente in discesa, perché si legge di campioni che sono disposti a abbassarsi il compenso pur di andare all'estero. Succedeva il contrario, non nella preistoria, ma fino a qualche anno fa. Però c'era questo grande ombrello: noi siamo i campioni del mondo, quindi eccetera. Ecco, io affronto questo argomento in un articolo che esce sul Guerrino Prossimo, per dire appunto che i fatti andrebbero anche interpretati. Noi siamo stati campioni del mondo, perché ormai nei 4 anni che intercorrono fra un mondiale e l'altro, questo calcio cambia talmente in fretta, anche sotto il profilo tecnico, che sì, essere titolari in carica non significa essere i primi. Ed è indubbio che da allora noi siamo stati sorpassati in tromba. Secondo me anche come concezione di calcio. Forse è stato il canto del cigno di un certo tipo di calcio, quella nostra vittoria nel 2006, fatta da una squadra con una formidabile difesa, un centrocampo ringhioso, diciamo, e un gioco d'attacco abbastanza precario, se è vero che il nostro capocannoniere ha chiuso con due gol. Però è bastato, ci ha entusiasmato, anche perché sorretto da motivazioni straordinarie. Era un momento in cui eravamo al centro del mirino per uno dei tanti scandali che periodicamente ci affligge, e quell'essere in trincea contro tutto e contro tutti ha dato a un gruppo buono ma non straordinario, ha dato il modo di andare al di là dei propri limiti. Ecco, quel titolo è stato allora meritato, entusiasmante, però ha un po' nascosto la realtà. Non eravamo i più bravi allora, non lo siamo stati dopo, a maggior ragione, perché c'è stato un europeo di mezzo e c'è stata questa tournée, chiamiamola tournée perché Confederation Cup è una delle tante invenzioni del calcio moderno, sì. E però c'è stato secondo me un sorpasso, cioè le scuole dominanti di oggi praticano un calcio diverso dal nostro, un calcio più tecnico, mentre mi pare che noi siamo rimasti a un calcio atletico. Mi stupiscono certe dichiarazioni degli allenatori, adesso siamo in fase di mercato, che li invocano tutti per, come ricetta miracolosa per le loro squadre, più chili e più centimetri. Il talento sembra essere diventato un optional. Fa scuola l'Inter, che è una squadra straordinariamente muscolare, con punte di eccellenza tecnica, per carità, che domina in patria, ma prende solenni scopole quando mette il naso fuori. Certo, ed è una lezione. Perché adesso si gioca un altro calcio, che è quello della Spagna e del Brasile, io penso dell'Argentina, se con tutto il bene che vogliamo al nostro amico Maradona troverà un commissario tecnico all'altezza dei Menotti o dei Bilardo. Ti trovo in grande forma oggi, Adalberto. Forse ho parlato troppo. No, assolutamente, ti trovo in grande forma, perché in questa disamina ne hai distillate alcune. Intanto hai ricostruito alla perfezione in che ambito bisogna ricordare quel titolo mondiale e che cosa vale. Poi discendendo e venendo avanti, insomma, hai centrato dal mio punto di vista assolutamente alla perfezione. Questa che mi sembra la vera chiave di lettura, e cioè siamo nostalgici in un certo senso, ci manca un tipo di calcio che è già superato nel resto del mondo, e i nostri tecnici a quello invece continuano, salvo forse qualche rara eccezione, continuano a ispirarsi. Questo mi sembra un problema serio. 2006, dicevi, io farei ancora una riflessione, prima di arrivare poi ai giorni nostri, anche sul 2008, perché anche questa è molto istruttiva. Non fu certamente un buon europeo quello della scorsa stagione, perché cominciò con un disastro con l'Olanda che è simile a quello con il Brasile l'altra sera, no? Sì, nel punteggio sicuramente. Contro l'Olanda giocammo meglio, questo perlomeno provammo a giocare. Sì, non fu una resa senza condizioni come questa, ma insomma fu. Poi va bene, poi ci fu una stentata partita con la Romania, poi ci fu una fortunata, per il mio, partita con la Francia. Insomma, morale, si arrivò a questa partita con la Spagna che segnò la fine dell'avventura di Donadoni, perché quello 0-0, l'Italia non perse ma andò fuori ai rigori, quello 0-0 segnò il confine e diede ad Abete, al presidente federale, l'alibi che aspettava per tornare al suo amato Lippi. È un percorso che ci sta, ci può benissimo stare, anche se si presta ad alcune riflessioni e magari censure, però c'è un aspetto grottesco che riguarda la Spagna. La Spagna ha vinto le ultime 25 partite meno quella, ne ha vinte, e le ho sott'occhio e sono assolutamente impressionanti, ne ha vinte 15 dopo con quelle due che ricordo, esatto, e ha vinto le nove precedenti. Credo che è vero che eravamo fine europeo, è vero che era scaduto il contratto a Donadoni, ma insomma ci fu forse un pochino di fretta, no, nel prendere. Ma io allora di difesi Donadoni, anche perché in quella partita con la Spagna, delle due che andò più vicina a vincerla prima dei rigori fumo proprio noi. E poi perché riuscimmo a mettere in difficoltà la Spagna, ma secondo me sempre sul piano del gioco, non dei risultati, abbiamo fatto i passi indietro da Donadoni all'IP2. Quella squadra aveva più un'idea di gioco in avanti. Noi nello stesso tempo in cui abbiamo perso due giocatori, due attaccanti creativi, diciamo così, come Totti e Del Piero perso nel senso che non lo si chiama più e comunque il tramonto è nell'ordine naturale delle cose, oltre che anagrafico, insomma. Rinunciamo anche all'unica alternativa che abbiamo in questo settore, che è Cassano. Ora io mi rendo conto che Cassano ne ha combinate di cotte e di crude, però non credo meriti una condanna a vita dal momento che il suo ultimo anno è stato esemplare, sia dal punto di vista del comportamento, sia dal punto di vista del rendimento. E quindi senza un giocatore di quel genere e con un Pirlo che mi sembra un po' sballottato negli ultimi tempi, l'ho rivisto addirittura, l'ho visto riproporsi in un ruolo di trequartista che pareva ormai abbandonato e poi giocare con protezione scarsa, reduce anche da una stagione nel Milan dove aveva tanti fini dicitori al suo fianco che doveva fare più il Gattuso che il Pirlo. Sì. Ecco, in queste condizioni le punte, che pure sono state forse la delusione più grossa del torneo in Sudafrica, hanno l'alibi di aver avuto rifornimenti scarsi e non illuminati, ecco. Questo senza dubbio. Ora, da questo scenario che tu annunciavi, appunto, questa, hai già strillato prima, questa disamina che uscirà su Guerino successivo, io sott'occhio quella del Guerino uscito ieri, in cui non mancano gli accenti anche forti, tipo l'ennesimo patetico, l'ennesimo patetico tentativo di recuperare Toni, sbiadita controfigura e guerriero dei tempi ruggenti, Montolivo regista in uno strambo centrocampo verticale, Pirlo restituito Roy trequartista, l'hai detto, Iaquinta da centravanti che era stato con l'Egitto e tra l'altro sfortunato, ma è più presente e di colpo va a fare cosa, e oltretutto poi si scopre dopo che ha giocato pure con la febbre. Fare il terzino su Maicon. Bravissimo. Allora, quel rinnovamento che, per quanto gli era stato possibile, ma Donadoni in quell'anno e mezzo aveva tentato, aveva provato a perseguire, di colpo è stato quasi sostituito da una restaurazione con questo ritorno di Lippi. Esatto. È questa, no, la sensazione? Sì. Noi dobbiamo a Donadoni, ecco, lì magari l'infortunio non ci ha consentito di vederlo anche in Sudafrica, di Natale ad esempio, cioè tentativi di uscire da quel gruppo storico, benemerito, eccetera. Adesso mi pare che ci sia una una timidezza nell'affrontare decisioni, un ricambio. Cioè noi abbiamo due terzini, per carità, bravi, Zambrotta e Grosso hanno disputato nel 2006 un mondiale formidabile, che gli è valso un bellissimo ingaggio all'estero dal quale sono tornati. Uno è tornato già da un anno, l'altro sta tornando, perché forse anche là ne hanno constatato un certo declino. Poi per vedere giocare i titolari dei ragazzi che valgono, noi dobbiamo aspettare molto. Io facevo un parallelo fra il comportamento che abbiamo noi nei confronti dei giovani e gli altri. Il Brasile è la nazionale che ha più possibilità di scelta, io credo, sì, fra tutte al mondo, forse l'Argentina, cioè fra tanti campioni sparsi, eccetera. Ora a Milano giocano sulle due poste sponde due coetanei che sono Balotelli e Pato, che sono due potenziali fenomeni, uno più serio, Pato, l'altro più stravagante, Balotelli. E Pato ha già un curriculum nella Seleção, cioè nella più forte nazionale storicamente del mondo, fatto di tante presenze e parecchi gol. e Balotelli sta sgomitando per entrare nell'Under 21. Ora ha anche delle colpe lui, ma c'è alla base di tutto che se si vede un brasiliano di 18 anni che è un fenomeno, lo si porta in nazionale. Se si vede un italiano che è un fenomeno, dice fai la trafila e poi magari non sempre esce dalla trafila, ecco. E questo anche nelle squadre di club abbastanza, cioè siamo più timidi rispetto all'estero nel lanciare i giovani. Beh, ti farà piacere, Alberto, sapere che un ascoltatore di Marco Manzardo è felice di sentirti così in forma, visto che proprio stamane ha rinnovato l'abbonamento al Guerino. Quindi l'ho appena scritto, questo mi sembra molto... Sì, molto... la percentuale. Certo. Senti, siamo arrivati a un punto di disamina, di ricostruzione, di errori o di scelte o insomma comunque di sviluppi. Adesso proviamo ad andare un pochino avanti e cioè proviamo a vedere come andrebbe ritoccata, innovata, rivoluzionata. Intanto bisogna scegliere il verbo, e cioè il genere di intervento da operare a parer tuo sulla nazionale, e poi a seconda che debba essere più o meno invasivo. Si possono provare a quantificare, magari a individuare anche dei nomi. Ma io userei rivitalizzata. Rivitalizzata. Io confesso che non ci avevo pensato, quindi mi sembra affascinante l'idea che ho letto sui giornali in questi giorni di un De Rossi centrale difensivo. Perché onestamente, ponendomi il problema, pensavo che effettivamente le alternative sono pochissime. Questa pessima prova sull'arco delle tre partite di Chiellini, che era l'emergente del settore, preoccupa, perché abbiamo visto nell'amichevole con la Nuova Zelanda che anche Gamberini, che pure sul quale io credo in proiezione, aveva mostrato parecchi impazzi, le grottaglie mi sembra, sì, un rimedio di passaggio. Sì. Cannavaro, per carità, io ho detto che è stato un po' il simbolo di questa nostra spedizione, che l'unico motivo di entusiasmo è che un giocatore aveva battuto il record di longevità in azzurro, perché è stato l'unico... merito di Cannavaro, che è un giocatore esemplare sotto tanti profili, però che anche lui è tornato dall'estero, perché il Real, facendo lo squadrone, ha detto vabbè, forse questo è già un po' avanti negli anni. E allora questa idea mi piace, mi solletica, e credo anche che sia compatibile, visti alcuni precedenti, con un impiego invece diciamo rituale nel suo ruolo vero nel club. Perché ad esempio nel Milan abbiamo visto sia Rijkaard che Desailly, per esempio, fare i centrocampisti mentre facevano i centrali difensivi, con grandi rendimenti e grandi risultati nell'Olanda e nella Francia, insomma. Quindi potrebbe essere una soluzione. Quest'anno l'abbiamo vista adottare in emergenza dall'Inter con Cambiasso, cioè quando un centrocampista portato all'interdizione può fare quel ruolo, sicuramente ne trarrebbe vantaggio quantomeno la manovra di rilancio, perché il pallone parte da uno che sa trattarlo e sa riproporlo, ecco. Potrebbe essere... è un'idea che mi piace, così, come tentativo. Ecco. Mi ricorda un po', in chiave ovviamente molto più moderna, ma è un po' il principio forse che ispirò lo spostamento a libero, e parlo di 30 e passa anni fa, di giocatori di impostazione, cioè quando... Sì, era in Messico, ecco. Sì, cioè il c'era in Messico, ma il Beckenbauer in Germania, mi ricordo lo Zaccarelli a Torino, per esempio, a parte Kroll e questi, cioè giocatori di impostazione, non avere più soltanto due giocatori difensivi centrali, ma averne uno dei due almeno che è in grado anche di impostare e giocare il pallone. Sì, ecco, ovviamente questo presuppone che il partner sia più un Chiellini che un Cannavaro, nel senso un giocatore di stazza e forte nello scontro anche fisico con il centravanti, insomma. Ecco. D'altra parte un centrale del genere l'abbiamo avuto già con Piano di Bertolomei nella Roma, no? Sì, sì. Nella Roma di Lidl. Certo, ecco, sì, ci sono. A un certo punto lo scatto fu lì, il salto della squadra, che, perché aveva uno dei due difensori centrali in grado di proporre gioco, di fare il playmaker in piena regola proprio. Sì, come sarebbe, questo, secondo me, gioverebbe anche a Pirlo, perché De Rossi, Pirlo, sì, è chiaro, sono grandi giocatori e quindi possono coesistere, però se i compiti sono più definiti è meglio. Ah. Allora, questa... poi dai, i terzini, Santon credo che sia troppo facile dire, sì, Santon, sì, però bisogna dirlo, insomma. Certo. Dall'altra parte, non so, Dossena non è che sia un fenomeno, mi sembra, può essere una soluzione tampone, ma poi anche Grosso nella partita inaugurale ha fatto una buonissima prestazione, poi probabilmente gli impegni così ravvicinati non consentivano di anche, dare tutto. Anche secondo me. Si sta facendo anche largo bene Motta, mi pare, nell'Under. Ecco, Motta a me piace molto, come anche quel Criscito che ho visto, sì, cioè, a parte nel campionato del Genoa, ma anche nell'Under 21, che come centrale forse era non abbastanza gladiatorio, non so, ma come terzino è bravo, insomma, è sicuramente bravo. Bon, e fin lì arriviamo al reparto difensivo. A me i centrocampisti piace molto D'Agostino. Sì, anche non è di primo pelo, però il D'Agostino vero l'abbiamo visto in questa stagione, vero, io me lo auguro per sé, forse anche per la Juve, se è vero che lo prende. Ma mi è sembrato quest'anno forse il migliore del ruolo nell'arco del campionato. Sì. Un giocatore che tira le punizioni splendidamente, cioè ideale vice Pirlo, ma se sposiamo il concetto di un calcio più tecnico, anche partner di Pirlo, perché Xavi e Iniesta non sono due colossi, no, tutt'altro. Messo uno sull'altro ne fanno uno di, sì, colossi, sì, è vero, è vero, però è vero. La palla non la perdono mai e quindi hanno ragione loro, anche se non sono grandi, se non hanno né chili né centimetri, ecco, sono... poi c'è il problema dell'attacco, ecco, problema arriviamo dell'attacco. Arriviamo a quello finale. Detto, per me Cassano ci vuole, almeno bisogna riprovarlo, ecco, perché ci vuole un attaccante di quel tipo. Poi la sirena Maurini, non so, Toni mi sembra un po' al capolinea, onestamente, anche la sua stagione nel Bayern è stata complicata, ma non brillante. Girardino in nazionale non riesce a convincere mai, non so se per mancanza di un partner adatto o per suoi limiti. Non so. Dei giovani di Balotelli, giovani di Acqua Fresca? Si può dire, ecco, Balotelli ovviamente, anche questo Acqua Fresca che fa sempre gol non è male, però voglio dire, è già una soluzione più futuribile. Concludendo questa disamina, questo sguardo di orizzonte, ci sono altri nomi? Scusa, lo stesso Iaquinta per, sì, me è quello bellissimo, come Quagliarella, come Di Natale, certo, ecco, certo, sono certo giocatori sicuramente in grado di dare. E poi c'è questo Rossi, perché non lo considero uno dei due attaccanti, perché non so, allora bisognerebbe forse cambiare modulo, però Rossi è sicuramente un ragazzo molto dotato che sa fare un po' di tutto, l'esterno d'attacco o la seconda punta. Certo, e poi c'è a centrocampo, mi sembra che sia molto interessante Cigarini, per esempio. Cigarini, so, bravo, bravissimo. Ecco, però il problema è molto ordinato. Certo. Poi ci sono i mediani alla Gattuso, diciamo, che comprendono lo stesso Gattuso, che là non va giudicato perché veniva da un anno di inattività, lo stesso Ambrosini per soluzioni di emergenza, non so, ma si può, gli interditori non manchiamo, no, questo no, Palombo no, della Sampdoria, insomma. Ecco, però ci terrei a chiudere questa riflessione ad alta voce dicendo che non credo, almeno mi pare aver capito, che non è che tu dici devono giocare tutti questi insieme, no, e soltanto loro devono essere quantomeno provati, ecco, se no li mandiamo allo sbaraglio, se gioca. Devono essere un po', questi sono quelli su cui si può sperare di poter costruire qualcosa insieme ai migliori, ai più sani della vecchia guardia, ho capito così. Sì, poi sai, vedendo l'Under l'ultima volta, dico, non quella di ieri sera, ma quella del 2-1 dello sciagurato Balotelli, per tornare a quello che sgomita o scalza, Giovinco è stato incantevole in quella partita, no? Poi non troverà un posto un po' più stabile nella sua squadra. squadra, è difficile pensarlo in nazionale maggiore, ma certo un talento così è difficile tirargli una riga sopra prima di avergli dato un'occhiata, ecco. Penso proprio. Penserei un momento, ecco. Poi sì, poi si è fatto i nomi, ne ha dimenticati tanti, ma ci sono, cioè, secondo me noi abbiamo buonissimi giocatori, abbiamo un po' di riluttanza a buttarli nella mischia, per non bruciarli, dici lì, ma secondo me questi giovani qua non si bruciano più, oppure se si bruciano vuol dire che non avevano le doti per arrivare tanto lontano. Cioè, tu non sei per usare troppo il decanter, la bottiglia si stappa e se c'è. No, se no continuiamo a dire, ma però se la lasciamo lì, vabbè. Il decanter... A me ricordo un po' la situazione del tennis, è stato un periodo che noi vincevamo tutti i tornei giovanili, sì, e dicevamo, ma perché questi poi non diventano campioni come... E dicevamo, però abbiamo il miglior diciottenne perché ha vinto il tal torneo, e in Germania dissero, ma il miglior diciottenne pensiamo di averlo noi, a quel torneo lì non c'era perché nel frattempo ha vinto Wimbledon, certo. Ed era Boris Becker, gli altri li mandavano a vincere Wimbledon, non gli facevamo fare il torneo giovanile, poi lo vincevano. È un po' il fatto che la nostra Under 21 è sempre fra le prime, sì. Storicamente è una nazionale che ha un rendimento fantastico, cambiano i giocatori, cambiano i tecnici, ma probabilmente noi i nostri li teniamo tutti lì e gli altri invece li fanno volare. Sai Adalberto, il largo ai giovani non fa parte proprio della nostra concezione in questo momento, no? Se guardiamo la politica è assai più triste che non il calcio da questo punto di vista anagrafico, e quindi credo che ci sia da stupirsi fino ad un certo punto. Io non so come ringraziarti di questa conversazione. Evidentemente siamo molto attaccati. A presto Adalberto. Oh, non dimentichiamoci dell'Under 21, che il suo cammino invece lo sta facendo brillantemente. Anche ieri sera ha vinto, pur senza poi incantare, ma insomma ha fatto quello che doveva fare con la Bielorussia, è arrivata in semifinale, che era il traguardo per questa manifestazione. Peccato per Paolo De Ceglie, che ieri sera si è infortunato e adesso arriva la notizia dell'agenzia che deve rientrare in Italia perché non è in grado di proseguire a causa appunto questo infortunio, un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Mancherà con la Germania in semifinale venerdì, mancherà anche Marchisio per squalifica, mentre rientrerà Balotelli, che la sua squalifica l'ha scontata. Sentiamo il commento di Casiraghi. Alla fine abbiamo sofferto tanto, forse avevamo un po' paura, sono le partite più brutte da giocare, nel senso che magari un errore come è successo nel primo tempo ti può far perdere la partita, quindi un po' di paura c'è stata, però eravamo superiori, alla fine insomma mi sembra che abbiamo avuto tante palle gol, adesso siamo nelle prime quattro, quindi il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, adesso speriamo di divertirci. Qualche ascoltatore domanda, ma avete dimenticato Pazzini? Ma sì, ma abbiamo dimenticato Pazzini e chissà quanti altri ancora. Non avevamo degli elenchi preparati. I giovani interessanti sono tanti, poi un conto è essere un giovane interessante, un conto è poi superare l'esame, il salto di qualità che ci vuole per giocare, se non da protagonista, perlomeno da comprimario in nazionale. Sentiamo i vostri pareri. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Rinnovati complimenti per la trasmissione. Io addebito il crollo dell'Italia al fatidico cambio di modulo. È dal 34 che noi abbiamo sempre giocato col 4-4-2 e non ho mai capito perché passare al 4-3-3 dopo aver vinto l'ultimo mondiale. Anche perché è un modulo che le squadre che l'hanno applicato sono sempre state squadre giovani, invece noi lo applichiamo con i vecchietti, e per fare il 4-3-3 credo che sia importantissimo la corsa e soprattutto il fiato. Vedere Zambrotta, Paonazzo con la bocca aperta a metà del primo tempo col Brasile indica tante cose, soprattutto un Pirlo che fa della lucidità la sua arma migliore non può essere costretto a fare da molla e a correre come un gattuso normale. Credo che questo sia uno dei grandi aspetti, dei grandi problemi dell'Italia. Sì, che dal 34 in avanti l'Italia si applichi il 4-4-2, Vincenzo, mi sembra un po' allegrotta come interpretazione modulare, eh? Il basso è sempre stato quello, due ali alte con due terzini alle spalle. Abbiamo sempre giocato, poi il 4-3-3, io almeno l'ho sempre visto giocare con l'Udinese o con Zeman, il 4-3-3 puri o con Rossi, ho sempre visto un centravanti molto mobile come Pagliarella nell'Udinese o Floro Flores. Sì, ma per esempio la Lazio Rocchi che comunque fa un grande movimento, noi invece pretendiamo di mettere Toni. No, va bene, questo sì, ma mi ha incuriosito un po', cioè mi dice com'era il 4-4-2 di Berzot per esempio? Tardelli e cosa c'è? Tardelli che scendeva, cioè sono sempre stati quelli gli impianti, noi abbiamo sempre giocato due punte. ma mai, cioè, ma mi dice come, cioè, ma il 4-4-2 la nazionale di Berzot, ma la ricorda? Più o meno. Avevo due anni all'epoca. Ma se aveva due anni, come fa a dire che e parliamo dell'82, come fa a dire che dal 34 l'Italia gioca con 4-4-2? Ma Wikipedia è questa che fa danni o cos'è? Forse è la mia inesperienza. Ecco, bravo Vincenzo. Allora diciamo che se il 4-4-2 oggi è il modulo probabilmente più diffuso, più praticato, poi in via di superamento, in via di aggiornamento, ma non, cioè, no, non è che a calcio non si poteva giocare se si faceva il 4-4-2. E dato che vorrei che Vittorio Pozzo riposasse tranquillo senza dover sobbalzare e spero che il mio vecchio amico Enzo Berzot non sia in ascolto, perché sennò a quest'ora gli è schizzata l'adrenalina e magari anche gli è sbalzata la pressione. Non 4-4-2 non appartiene a quei moduli. Giorgio ha chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Dica. Penso che il calcio italiano, poi con tutti i suoi difetti, alla fine sia un movimento talmente importante che poi gli anticorpi per uscire da queste situazioni più o meno insomma riesce a trovarli, no? Secondo me è importante, io vedo con favore il fatto che i grandi campioni stranieri comincino un po' a andare via dal nostro campionato, e mi aspetto che succeda un po' quello che era successo negli anni 70. Ero ragazzino, però mi sembra di ricordare abbastanza bene che passammo un decennio dove il campionato nostro era piuttosto modesto, cominciò a risvegliarsi forse col Torino di Radice di lì in poi. Nelle coppe beccavamo regolarmente, prima dagli olandesi, poi dai tedeschi, poi dagli inglesi, però l'autarchia allora imposta fece in modo che pian piano crescessero nei ruoli chiave quei giocatori che poi nel 78 si sono un po' affacciati insomma ai mondiali Argentina, e poi nell'82 sono venuti fuori veramente con una vittoria, una vera vittoria dei mondiali. E senza nemmeno 4-4-2, no? Questa è una battutaccia. No, ma è vero, Giorgio, il racconto è così. Poi non è che l'autarchia sia sempre così producente e che invece la presenza di stranieri sia sempre così negativa, perché per esempio la grande generazione degli anni 60, quella dei giocatori di grande talento e di grande tecnica, sto pensando a Rivera, a Mario Corso, a Bulgarelli, a Mazzola, a tutti questi, nacque e crebbe in realtà con le squadre piene di stranieri e piene di grandi stranieri. E basta che dica Lidolm o che dica Schiaffino o che dica Wilkes o che dica Sivori, insomma sono tutti nomi, ma ce n'erano tanti nei club di allora, eppure quei giovani in forza del loro talento riuscirono tranquillamente ad emergere. Poi però è accaduto anche il contrario, e cioè che senza stranieri in Italia sia cresciuta una generazione tecnicamente non forte come quella là, tecnicamente, però da un punto di vista psicofisico e temperamentale certamente superiore, che è quella a cui alludeva lei. Vediamo se la crisi ci porta qualcosa di buono da questo punto di vista. Paolo Macerata, buondì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo fare un po' il difensore della patria, fra virgolette. Volevo dire, è vero che in Coppa Campioni siamo usciti agli ottavi, però è anche vero che l'Inter è uscita con la squadra che è poi arrivata in finale, che la Juventus è uscita con una squadra che comunque l'anno prima era arrivata in finale, che non meritava di uscire con il Barcellona. E poi per quanto riguarda la nazionale, diciamo, comunque noi ci scordiamo un po', diciamo, nel 2006 noi abbiamo vinto un campionato del mondo subendo solamente due gol, un rigore di Zidane in finale e una doverità di Zaccardo. Abbiamo vinto il pallone d'oro con Cannavaro, Buffon si è classificato secondo. Ci sarà bisogno di cambiare qualcosa, però diciamo che Lippi, secondo me, l'anno prossimo presenterà una nazionale tosta. Vabbè, questo era, l'ha detto prima d'altra parte, che lei avrebbe sventolato il bandierone, quindi mi pare sia stato in linea il suo intervento. Andrea da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono Andrea di Monazzone. Io sono un attimino differente, cioè la penso diversamente dal ragazzo di prima, nel senso, io penso che è stato silurato Donadoni, che è una persona molto umile e ha dato quantomeno una parvenza di gioco alla nazionale, e invece viene esaltato Lippi, che non so neanche come definirlo, lì, se è un simpatico o che so io, no? E poi volevo far notare un'altra cosa, no? Secondo me il fattore che un attimino è stato determinante per la vittoria del mondiale nel 2006 è stata anche la fortuna, no? Oltre ovviamente alla difesa, all'ottima difesa, e volevo sapere il vostro parere, tutto qua. Io credo che senza fortuna non ci sia vittoria, nel momento quasi mai. Cioè, c'è un momento, soprattutto in un torneo, in un percorso, c'è un momento in cui se non hai fortuna non arrivi. E se ce l'hanno gli altri, la botta di fortuna, anche se tu magari hai meriti maggiori, è difficile che te la cavi. Detto questo, l'abbiamo detto talmente tante di quelle volte, che oggi compreso, che la componente fortuna nel 2006 fu abbastanza rilevante, che no, spero non abbia la pretesa che questo suo contributo abbia il pregio dell'originalità. Ecco. È il momento di sentire anche oggi che cosa è accaduto in questo giorno nella storia dello sport. Il 24 giugno, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 giugno 1995, Ellis Park Stadium di Johannesburg. Contro i pronostici della vigilia, la nazionale sudafricana di rugby batte la Nuova Zelanda per 15-12, conquistando il titolo mondiale. È un successo epocale, anche perché si tratta della prima manifestazione internazionale cui il Sudafrica viene ammesso dopo la fine dell'apartheid. Ed è un trionfo che porta anche la firma di Nelson Mandela. Il presidente aveva voluto fortemente i mondiali in Sudafrica, convinto che il rugby, pur essendo storicamente uno sport riservato ai bianchi, potesse contribuire ad abbattere gli steccati in un paese alla ricerca di una nuova identità condivisa. Continuano ad arrivare molti, molti messaggi. Adesso Lippi non ha gioco, scrive un ascoltatore, e Donadoni sì. E adesso Lippi, infatti, e poi ricorda che Lippi ha vinto, eccetera, eccetera. E adesso, ha detto bene lei, adesso Lippi non ha gioco. Sinceramente, in queste tre partite non mi pare si sia visto gioco. Poi magari abbiamo visto male noi. Andrea, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Il problema delle tasse, secondo me, non è stato affrontato nella maniera giusta. È molto semplice e responsabile, tra virgolette responsabile, Lippi, che è diventato un montato ed è una persona che ha anche le fette di prosciutto davanti agli occhi. Questo perché un giocatore vecchio, tra virgolette, va portato quando è un fenomeno. I fenomeni nella storia del calcio, che io ricordo, ce ne sono stati 5 o 6. Due abbiamo la fortuna di averli ancora, Totti e Del Piero. Portiamoli, ecco, i giocatori avversari gli stanno attaccati due o tre volte. Non mi porti dei giocatori, dei buoni giocatori di Serie A normali in nazionale, cioè Cannavaro, Zambrotta che non fa più un cross, Camoranesi, nonostante abbia fatto una gran partita con l'Argentina, e le soluzioni alternative, lo conferma l'Under 21, eccetera, ci sono. Porti quei due o tre fenomeni che ne sono nati sei nella storia del calcio e basta. Sì. È un discorso molto semplice. È talmente semplice che è la seconda volta che lei mi intriga a chiedere chi sono stati gli altri quattro, ma non ci casco, Andrea, e quindi per oggi direi che può bastare così. Andiamo in provincia di Vicenza da Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Senta, io invece volevo, se era possibile, Garanzini, sì, soffermarmi su un particolare che riguarda non più gli aspetti tecnici dei giocatori, ma quelli che riguardano tattici. Sì. Cioè, pensare improvvisamente che una nazionale sia arrivata alla fine, quando questi sono tutti campioni che continuano a giocare ovunque, è un po' prematuro. Io direi che piuttosto, secondo me, l'impostazione tattica di Lippi andrebbe un po' rivista. Cioè, non si può giocare con gli Iaquinta e Toni davanti avanti, senza due punte vere che spingono sulle fasce per fargli cross, per permettergli due punte vere oltre gli Iaquinta e Toni? No, no, due punte centrali, no, questo io li farei come centrali, cioè dovremmo avere due centrali e un tipo un Foggia sulla sinistra e praticamente qualcuno che spinge anche sulla destra, non più Zambrotta. Quindi un 4-2-4 allora, praticamente. Prego? Un 4-2-4 allora. Esattamente, proprio così. Cioè, se noi affrontiamo le squadre come il Brasile, che immediatamente si allungano dovunque, spaziano dove vogliono, senza una squadra che gioca a fisarmonica in maniera perfetta, e con le punte che veramente sono messe in grado di segnare, le punte centrali, perché altrimenti non è possibile. Cioè, Iaquinta e Toni sono due fuoriclasse che però non possono prendere palla al centrocampo come hanno fatto contro il Brasile e puntare l'area. Un 4-2-4 contro il Brasile dell'altra sera, secondo me ci voleva l'elmetto per e soprattutto il pallottoliere per contare i gol in quel primo tempo, ma lei ha premesso che voleva parlare di tattica e quindi va benissimo. Oggi abbiamo già avuto un altro ascoltatore che parlava di tattica e che ci ha raccontato che è dal 34 che l'Italia gioca col 4-4-2 e quindi va bene così. Non vedo perché contraddirvi. Basta, sentiamo Marco da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti. Beh, più che con le tattiche bisogna giocare con dei giocatori buoni, però è un discorso un pochettino più semplice. Sì, ho appena sentito che Toni e Iaquinta sono due fuori classe, quindi giochiamo con 4-4-2 al 34. Poi ne ho sentite alcune oggi. Diciamo che evidentemente stimola parlare di nazionale, stimola la fantasia. Non voglio parlare di tattica perché non credo c'entri molto la qualità dei giocatori, certo. Ma prescindere da quello, io questo gruppo secondo me ha fatto i miracoli nel 2006. Questo è un gruppo scarso fondamentalmente in tutte le manifestazioni importanti dal 2000 in poi, tolto l'europeo di Zoff, non ha mai azzeccato un impegno, un appuntamento importante. Il 2002 è andato fuori in Corea come è andato fuori, 2004 gli europei è andato fuori come è andato fuori nel girone eliminatorio, 2006 è stato un insieme di circostanze fortunate, secondo me fortunate. Esatto, non c'entra niente con l'82, che dove abbiamo battuto le migliori squadre. Nel 2006 abbiamo battuto le migliori per arrivare in finale, perché la prima partita vera con la Francia siamo andati a rigore, ci è andata fatta bene perché la Francia ha dominato in finale, secondo me. E nel 2008 gli europei abbiamo fatto la figura che abbiamo fatto, dignitosissima, con Donadoni che è stato poi messo alla gogna, ma in realtà fondamentalmente ha perso i rigori dalla Spagna. Sì, quindi credo che dignitosissima nel quarto di finale, perché il girone non era stato così brillante, ma per l'appunto era un tentativo di rinnovare la nazionale e di uscire da quelle secche, insomma, da quei momenti di difficoltà. Grazie Marco, noi stiamo cercando di perfezionare il collegamento con il Sudafrica che invece tarda al momento. Allora sentiamo ancora Nicola, chiamato da Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Tre appunti, sì. Uno fatto da uno psicologo, sociologo tempo fa, quando disse che noi italiani tiriamo fuori il nostro animo, tutto quello che abbiamo, quanto siamo ormai immersi, no? Sì. Quindi col Brasile era il momento giusto. Sì, alla retta quello. Se ricordiamo, vincemmo il mondiale e subito dopo anche la Coppa Campioni con il Milan. Quindi non è tutto da buttare. Secondo appunto, per quanto riguarda i giocatori da scegliere, noi abbiamo vinto due mondiali, gli ultimi due, perché c'erano molti giocatori che giocavano nello stesso club, in questo caso la Juventus. Lei crede che sia favorevole questo, avere molti giocatori che giocano allo stesso club e quindi riportare su per giù lo stesso modulo? Certo Nicola, certo. Che squadra può offrire questo? Qual è la squadra che possa davvero mettere più giocatori? Oggi non lo possiamo dire, oggi non ce n'è nemmeno una evidentemente, lo possiamo giudicare nel futuro. Mi scusi se chiudiamo il suo intervento, ma abbiamo rintracciato finalmente Stefano Piazza in Sudafrica. Buongiorno Stefano, e può partire la sigla. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. Buongiorno Stefano. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Allora, collegamento con il Sudafrica in questi giorni. Ricordo che stasera, come sempre in questi giorni, ricordo che stasera si gioca la prima delle due semifinali Spagna-Stati Uniti. Domani sera tocca Brasile e Sudafrica. Tra le curiosità che questa Confederation ci ha lasciato, ce n'è una legata al clima, indubbiamente, perché stiamo vedendo anche dalle immagini che ci aspetta, cioè insomma, che il mondiale sarà giocato in un clima ben diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Sì, in effetti sì, dopo 32 anni, dopo Argentina 78, si torna nell'emisfero australe, quindi cambia il clima. Il mondiale si gioca in inverno, anche se è un inverno abbastanza temperato rispetto a quello a cui siamo abituati noi. Però ecco, per esempio a Johannesburg nelle ultime settimane di notte si è arrivati anche a 5 sotto lo zero, per cui insomma, di notte qualche problema magari si può incontrare. Diciamo che può essere positivo per il recupero dei giocatori, non assisteremo a scene pietose come è stato inizio nel 1934 con 50 gradi, e soprattutto non ci saranno partite a orari assurdi, soprattutto qui, per venire incontro alle esigenze televisive europee, visto che è lo stesso fuso orario. Comunque sì, la curiosità rimane. Lo stesso De Rossi ha commentato dicendo di non ricordare di aver mai visto un mondiale in inverno. In effetti c'è stato in Argentina, insomma, anche se sono passati un po' di anni. Stefano, acclimatatevi, è l'unico consiglio che mi sento di darvi. Nel frattempo ringrazio te, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, la sigla di questo spazio Confederation e poi anche la sigla di A Tempo di Sport. Confederation Cup, a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52% fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan.